I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Deborah Rosciani. La prima settimana post referendum per Brexit è stata davvero nervosa e complessa per i mercati finanziari internazionali. Con il terremoto che ne è seguito, le borse europee archiviano con un bilancio negativo il primo semestre dell'anno, con un netto peggioramento che si è verificato proprio nel mese di giugno. Ironia della sorte, però, è Londra a portare a casa invece un guadagno sia nella performance dell'ultimo mese sia da quella da inizio anno. Alla fine la questione politica, che ha mandato in forte ribasso la sterlina, ha favorito la maggior parte delle società quotate alla City, dal momento che l'80% realizza il proprio fatturato soprattutto all'estero. Da gennaio scorso invece Milano è la maglia nera d'Europa, con una perdita secca del 25%, e la situazione si fa sempre più ingarbugliata per il sistema bancario italiano, a dispetto delle buone notizie che sono arrivate dalla Commissione europea, che ha dato il via libera al sistema di garanzie pubbliche. Si parla di un pacchetto di 150 miliardi di euro da utilizzare solo se necessario nell'eventualità che le banche debbano fronteggiare improvvise carenze di liquidità. I titoli del settore bancario hanno beneficiato solo in parte della notizia, mantenendo la medesima volatilità delle ultime settimane, e il caso della settimana è stato rappresentato da UniCredit. È stato nominato il nuovo amministratore delegato, si tratta del francese Jean-Pierre Mustier, ma dopo una iniziale rassicurazione da parte della borsa, il titolo ha ripreso a scendere sulla prospettiva che arrivi adesso un nuovo importante aumento di capitale per il gruppo. E in tutto questo, nell'Europa delle banche c'è un fermento abbastanza forte per la situazione di Deutsche Bank, che non ha superato gli stress test americani, e anche il Fondo Monetario Internazionale ha inserito la banca fra quelle importanti a livello sistemico globale. Da segnalare infine, nella generale corsa che riguarda i cosiddetti beni rifugio, il minimo storico su cui viaggiano molti bond governativi, a partire da quello toccato nella seduta di venerdì dai titoli di Stato americani con scadenza a 30 anni. Per gli appuntamenti della settimana ricordiamo che oggi Wall Street è chiusa per la festa del 4 luglio, venerdì dagli Stati Uniti arriva la disoccupazione di giugno, altri dati in settimana, le banche centrali pubblicano i verbali delle ultime riunioni e arriva anche l'inflazione cinese. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. Nei giorni scorsi, dopo il risultato del referendum in Gran Bretagna, si era detto che una delle mosse future di Londra avrebbe potuto riguardare il fisco, e in particolare il taglio delle tasse sulle imprese. Ne ha scritto come scenario possibile anche l'edizione europea del Wall Street Journal, e qualcuno si era persino spinto oltre, immaginando Londra come un nuovo possibile paradiso fiscale. Fa quindi un certo effetto leggere quanto ha dichiarato al Financial Times George Osborne, il cancelliere dello scacchiere, il ministro del tesoro, e cioè che l'Inghilterra, per rispondere agli effetti negativi della Brexit, dovrebbe puntare alla creazione di un'economia super competitiva, e che la via per farlo è quella della concorrenza fiscale. In pratica Osborne, non è detto che sarà lui a guidare il tesoro inglese dopo l'uscita di scena di David Cameron, ammette che Londra potrebbe abbassare ancor di più le tasse sulle imprese, così da attrarre investimenti e fronteggiare in questo modo le conseguenze di Brexit. Il livello dell'imposizione dovrebbe scendere sotto il 15%, ricordiamo che Londra già oggi prevede di arrivare al 17%, e in ogni caso si tratterebbe di un livello molto vicino al primato dell'Irlanda, che ha una corporate tax del 12,5%. Ora, riuscirà la Gran Bretagna a diventare un paradiso fiscale di fatto dentro l'Europa, almeno geograficamente? Ovviamente è presto per rispondere, però c'è da scommettere che questo tema rischia di diventare un ulteriore terreno di scontro tra Londra e l'Europa. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS, e in video su radio24.it e rds.it.